Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone. Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo, già lo sapete, è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica Radio Libera barcellonese, Contrabanda FM appunto 91.4 sul litorale catalano, in streaming all over the world alla web della nostra Radio Libera. E poi ovviamente ci sono i podcast, li potete scaricare dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Oltre 10 anni di podcast, precisamente dall'inizio del 2011. Proprio in queste date, tra l'altro, anzi è il 12° anniversario della gestione che abbiamo di Zibaldone, dopo i tanti anni del nostro carissimo amico Roberto Fenocchio Robby, che salutiamo e vediamo se torna presto a trovarci qui a Barcellona. Oggi 10 marzo, una puntata dedicata alla musica della Sardegna e soprattutto alle cantautrici sarde. Cominciamo subito con una canzone e poi vi spieghiamo qualcosa di più. Intanto godetevi questo brano di Daniela Pes. Cadi a immagina, chi mi viene inganna, a mi dia tanto, un modo da parà, come chi su è ca. Lo causa di aspanto e lo mi dolce incanto, lo teno di pavanti, credi che valentia. Camilla dia di, e cadi, e con uno mi tradi, che non credi mai. sì, Daniela Pes, Camilla D.A.D., una delle voci probabilmente più interessanti della nuova scena cantautorale sarda, è attiva già da un po', classe 1992, nata a Tempio Pausania, insomma ha vinto già e ha ricevuto dei riconoscimenti importanti nell'ambito della canzone d'autore. Nel 2017 ha vinto il premio Andrea Parodi, che è probabilmente una delle realtà più interessanti non solo in Sardegna ma anche in Italia riguardo alla musica folk, e l'anno successivo è arrivata tra le finaliste di Musicultura. Ricordo tra l'altro che gli amici di Musicultura qualche anno fa erano stati anche ospiti qui di Zibaldone, avevamo un po' raccontato la storia di Musicultura, una delle realtà davvero più vive che ci sono al giorno d'oggi in Italia. E con Daniela Pes abbiamo aperto questa puntata di Zibaldone, e oggi 10 marzo 2023 appunto parliamo di Sardegna, perché Sardegna è un nome di donna, e quindi questa settimana, l'8 marzo è stato un paio di giorni fa, con importanti manifestazioni a Barcellona, in tutta la Spagna e in molte città dell'Europa e di tutto il mondo, abbiamo voluto parlare appunto di musica sarda, di musica al femminile, di cantautrici e soprattutto di giovani cantautrici, e ve ne faremo conoscere alcune, e soprattutto con alcune di loro anche parleremo dei nomi già importanti come Claudia Crabuzza, che ci presenterà il suo nuovo disco dedicato a una grandissima donna intellettuale, scrittrice sarda, ossia Grazia Deledda, e poi nella seconda parte invece chiacchiereremo con Vanessa Bissiri, anche lei ci presenterà il suo nuovo disco Empatica, e poi insomma i nomi di cantautrici sardi sono tanti, molti di più di quanti insomma potresti immaginare, e non c'è lo spazio per tutte ovviamente, ma per una selezione, vediamo se questa selezione vi piace. E poi torna anche a trovarci, era da un po' che mancava, Berardo Stagliano con i suoi consigli musicali. Ma andiamo subito ad ascoltarci un'altra voce della canzone della Sardegna di questi ultimi anni, anche lei bravissima, si chiama Elisa Carta. S'incontro è il titolo del brano che ci ascoltiamo. Naramilo due chiese, non ser mai in ueses, fusile contra chelo, bocca tua in sa mia, sauca tua in sa mia, fusile sopra che lu, se muscara cara noi, che candela sulla mi, lacrima steghera, Deo su in noi, frima soe, frama chi non si studa. Dimmi a pago su in tu sole, colo in to tu e strumento a neo, no rosa so escrare derise oe, so strumento a neo, proe, no rosa so escrare. Rosa so escrare, no rosa so escrare. Uno contro l'altro noi, spegnimi lacrime di cera, sono qui immobile, fiamma che non si spegne, soffiami a poco, se mi imbocca il vento noi, le radici affondano, lacrime di terra, krarau. No rosas o skrarau. No rosas o skrarau. No rosa. Questa è Lisa Carta, S'incontro è il titolo della sua canzone, che dà anche il titolo all'album uscito nel 2021, l'album di esordio, una voce molto bella, lo avete sentito, una cantautrice molto interessante, in sardo anche era questa canzone, quella precedente di Daniela Pes era in lingua gaddurese, Camilla Diadì era basata in una poesia del poeta gallurese Gavino Pes, e invece per quanto riguarda appunto Elisa Carta, il disco è uscito appunto dalla Mare Mano Records, lei è originaria di Bultei, un bel paese sardo, e qui accompagnata da Simone Sasso al pianoforte e il basso di Fabrizio Leoni, che avete sentito molto bene, una canzone molto profonda, molto bella. Ecco, Daniela Pes e Elisa Carta sono due delle cantautrici sarde che vogliamo farvi ascoltare quest'oggi, però appunto ce ne sono tante altre. Però prima di continuare questa, se così volete chiamarla, carrellata voci femminili della nuova canzone che troviamo in questi ultimi anni in Sardegna, andiamo ad ascoltarci un brano tratto dal nuovo disco di Claudia Crabuzza, Grazia la Madre, così è il titolo dell'album, è uscito alla fine del 2022, e poi ne parliamo un po' con lei. È sempre un piacere di trovare Claudia Crabuzza. Su tempus nota lì, sa sapere. casa. Se tu sa de chi da ne motile a sa delicadeza, canto di dura vita, notta da fa che notta senza anti sti strina luoghe più desaghi Questo è il primo brano di Claudia Crabuzza, Grazia la madre è il suo nuovo disco, è uscito alla fine del 2022 e questo brano si intitola Filos de Prata. Avete sentito, forse anche l'avete riconosciuta, la collaborazione di Caterina Angela Fadda che suona ma anche canta in questa canzone di Claudia Crabuzza, a cui diamo subito il benvenuto perché è la prima ospite di questa puntata di Zibaldone. Claudia, un bentornata nel nostro programma radio e tanti complimenti davvero per questo bellissimo disco e un progetto molto importante che riscopre una figura chiave come quella di Grazia Deledda. Grazie, ciao a tutti. Sì, è un progetto molto importante, anche coraggioso, perché abbiamo portato nella canzone i romanzi di Grazia Deledda e insomma sono operazioni sempre un po' rischiose, però siamo molto felici del risultato. Effettivamente, non è un'operazione mai facile quella, no, di far dialogare la letteratura con la musica. Insomma, in passato ci sono stati e ci sono tuttora tanti esempi, no, e anche molti riuscitissimi, però si tratta sempre, come tu dicevi, di operazioni complesse. Insomma, da un lato non è mai facile confrontarsi con grandi autori. No, assolutamente. Infatti Stefano Starace, che è l'autore dei testi di questo disco, ha avuto questa idea, questo desiderio di unire le sue due grandi passioni, che sono la musica e la letteratura, e di fare questo omaggio a un'autrice che lui ama moltissimo e che anche io amo moltissimo. Infatti sono stata felice di essere coinvolta sin dall'inizio nel progetto e di aver portato avanti questo lavoro. Però sì, è stato capace Stefano con le parole di chiaramente non si possono riassumere i romanzi, ci si può ispirare, infatti lui si è ispirato a dei piccoli dettagli o dei personaggi o delle piccole storie che sono all'interno dei romanzi, e ha dato vita a dei testi che sono poetici, molto, molto belli, molto profondi. Da questo punto di vista, come ha lavorato Stefano e come avete lavorato insieme? Ossia, a partire dai suoi testi, poi tu hai elaborato delle musiche, o invece è stato un progetto, diciamo, che avete portato avanti parallelamente per ogni brano? No, Stefano ha affidato a me un po' tutta la direzione del lavoro. Io chiaramente ho lavorato anche per sua richiesta con i miei compagni di sempre, che sono Fabio Manconi e Andrea Lubino dei Cicimeca, che si sono occupati delle musiche. Io ho preso i testi di Stefano invece e li ho diciamo ritagliati, gli ho dato proprio la forma della canzone, quindi adattando leggermente e rendendoli giusti per la metrica delle canzoni che poi sono state scritte da Fabio e da Andrea. Quindi abbiamo lavorato così con molto tempo, poi nel frattempo era successo un po' di tutto in questi anni, quindi è stato un lavoro molto lento, però abbiamo lavorato sempre molto bene, perché forse l'intuizione di Stefano è stata giusta, quella di affidare a noi, che abbiamo già una sonorità nostra come Cicimeca, questi brani che sono chiaramente legati a un immaginario di un continente vero e proprio, che è quello della Sardegna, e quindi noi probabilmente abbiamo avuto anche la facilità di riuscire ad esprimerlo. Eh sì, assolutamente. Tra l'altro, insomma, quanto c'è, diciamo, nella grazia che voi mostrate della Sardegna, o meglio dire, che tipo di Sardegna esce dai racconti, diciamo, o della riproposizione cantautorale che fate tu e Stefano, appunto, di Grazia Deledda? Ma ci sono sicuramente degli spunti che sono quelli stessi importanti dei romanzi. Cioè, Grazia Deledda ha scritto di una terra ancestrale, legata a un bagaglio di miti e di costruzioni culturali che sopravvivono ancora, quindi sono le stesse che noi viviamo anche, come si può dire, quotidianamente nella nostra esistenza di sardi, e sono quelli che sono stati espressi, per esempio una vicinanza molto, molto netta, molto stretta con la natura, e il legame molto stretto che c'è tra l'uomo e la natura, e questo doppio legame, perché uno dipende dall'altro e viceversa. Questo per esempio è uno dei temi che ritorna in varie canzoni, e poi la difficoltà della vita, dell'amore, delle passioni, perché è un tema molto presente nei romanzi di Grazia Deledda. Le persone si portano addosso un carico di colpa e di difficoltà a cui non si può sfuggire. Dall'altro c'è anche da dire, no, Claudia, che Grazia Deledda, insomma, poco tempo fa è stato il 150esimo dalla nascita, no? Quindi è anche stata un'occasione per riscoprire Grazia Deledda. Su questo volevo con te, diciamo, toccare forse due tematiche. Uno, quanto è ancora attuale, in parte già forse ce lo dicevi, Grazia Deledda, voglio dire, una scrittrice che diciamo comunque è scomparsa già da parecchi anni, e dall'altra Grazia Deledda, diciamo, è stata una grande sconosciuta, forse almeno fuori dalla Sardegna, nel resto d'Italia, fino a poco tempo fa. Sì, allora, sull'attualità della Deledda ci sarebbe moltissimo da dire, perché è stata innanzitutto una donna moderna, modernissima, pur essendo nata nel 1871. È una donna che da quando aveva 15 anni ha stabilito fermamente di fare la scrittrice, nonostante tutte le condizioni della sua nascita lo impedissero, della sua condizione di donna in un piccolo paese come era Nuoro al tempo, e con tutte le avversità possibili l'ha deciso e l'ha messo in pratica esattamente come aveva stabilito, quindi trasferendosi a Roma, entrando nel mondo letterario e prendendo tutto lo spazio che lei sentiva di dover meritare. E poi anche per i suoi temi, perché appunto sono temi davvero molto, molto attuali, molto sentiti oggi, per esempio quello dell'ecologia, che lei ha descritto in modo, cioè anti-liter, un ecologismo anti-liter che non esisteva probabilmente neanche al suo tempo, perché ha descritto molto bene appunto questo legame con la natura e la necessità di difendere la natura e di rispettarla, e quindi la natura è presentissima nelle sue storie, nelle sue ambientazioni, è un personaggio in più, fa parte della storia sempre. E invece, solo per fare un esempio, certo. E invece l'altra questione, diciamo, come dire, di adesso forse è un po' esagerato, no? Quando dicevo la grande sconosciuta, perché in realtà non è mai stato così, però ecco. No, purtroppo purtroppo più che sconosciuta è stata avversata, sì, soprattutto sì, dall'Accademia, sì, ed è per questo che purtroppo è stata anche poco conosciuta, non come sarebbe stato giusto, perché l'Accademia non l'ha mai considerata all'altezza. In realtà lei veniva appunto da un mondo sardofono, e quindi era una scrittrice quasi straniera, perché ha dovuto imparare prima a parlare e a scrivere l'italiano per scrivere in italiano, ma ha scritto un italiano che metteva insieme, che diciamo dava forma al continente di significati e di significanti della sua terra. Quindi ha fatto un lavoro linguistico fondamentale per la letteratura sarda, ma che è stato anche un po' esempio per tutte le letterature altre, diciamo, delle lingue e delle culture non centrali. E proprio il 150esimo della nascita è stata un'occasione molto importante per la Sardegna per riparlare di lei, e soprattutto per reinserirla nel contesto giusto, che è anche un contesto universitario. Soprattutto c'è il professore Dino Manca, che tra l'altro ha scritto un bellissimo contributo per il libretto del disco, che ha fatto un'opera molto importante in questi anni di riconoscimento dell'opera di Grazia Deledda, sia attraverso conferenze che sono state fatte a lungo nelle università sarde, e non solo sarde, anche in Italia e in Europa, ma anche per esempio con la fondazione di un corso di studio dedicato alle lingue e alle culture della Sardegna, in cui Grazia Deledda ha avuto finalmente l'importanza che meritava. E quindi è arrivato il momento finalmente di reinserirla nel suo contesto corretto e di riconoscerle veramente l'importanza che ha avuto per la letteratura universale. Volevo anche farti un'altra domanda, così una curiosità ovviamente. Dare un titolo a un progetto è sempre difficile. Nel vostro caso avete scelto un titolo che è molto forte, Grazia la madre. Ecco, perché avete scelto proprio questo titolo? Ho scelto questo titolo io perché sento che Grazia Deledda è proprio la madre non solo della nostra letteratura, ma anche della nostra cultura. È quella che ha dato proprio una voce, un linguaggio, una lingua che non esisteva alla nostra cultura. È stato, come dice appunto Dino Manca, ciò che Manzoni, scusa, è stato per gli italiani, per la letteratura italiana. Quindi la madre aveva questo significato, ma anche come modello non solo letterario, ma anche come modello di donna, perché è stata madre di tutte le donne, anche perché ha fatto nascere una donna che non esisteva, una donna determinata, una donna che ha scelto il suo destino, che ha scelto di sposarsi solamente con la persona che potesse realmente appoggiarla e accompagnarla nel suo percorso, con una visione veramente molto contemporanea. E quindi questo è un modo per costruire una tradizione femminile che ancora stenta a prendere piede, ancora oggi dobbiamo dire, purtroppo, soprattutto in Italia, c'è una difficoltà, ma perché appunto manca una tradizione femminile, manca il riconoscimento di una tradizione culturale femminile, e lei può essere, deve essere riconosciuta come madre di questa tradizione culturale delle donne. Sì, assolutamente vero, e insomma poi in questa settimana in cui tanto si parla di 8 marzo, anche a ben ragione ovviamente, però è bene anche ricordare tutto quello che ci stai raccontando. E andiamo a soltarci una seconda canzone che si intitola La solitudine non si muove. Claudia Crabuzza, questo bellissimo disco dedicato a Grazia Deledda, Grazia alla madre. Poi ritorniamo qui insieme a Claudia Crabuzza, che ci sta accompagnando in questa prima parte di Zibaldone. Cordone verso la buona creanza, l'istinto dell'amore per la femmina spingeva l'animale a farsi bello, ma la decisione era già presa, e silenzio e tristezza si stendono come una macchia nel paesaggio e nel tempo. Lui non voleva affezionarsi più a nulla. Ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. La casetta di contadini si nascondeva come rami nel fogliame e il platano davanti alla porta restava di guardia a protezione. Il lamento continuo della selva e il picchiare della pioggia come le unghie sulle tegole speccate che tentano di scardinarne l'accesso. Ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Voleva affezionarsi, affezionarsi più a nulla. Non voleva affezionarsi, affezionarsi più a nulla. La natura non è insensibile al dolore e all'amore dell'uomo. Così il platano d'inverno si colora di giallo e rosso come un innamorato. Ma la decisione ormai era presa e silenzio e tristezza si stendono. Uscire di casa in compagnia dei sogni e tornerà insieme al vento. Sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Solitudine intorno non si muove. Ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Non voleva affezionarsi, affezionarsi più a nulla. Non voleva affezionarsi, affezionarsi più a nulla. E questo è il secondo brano che vi proponiamo di Claudia Crabuzza, La solitudine non si muove. E Claudia, a questo proposito, abbiamo ascoltato ora un brano in italiano, il primo invece era in sardo. Ecco, nel vostro disco, Grazie alla madre, appunto, ci sono sia brani in italiano che brani in sardo. Sì, in realtà tutti i brani ispirati, tutti i brani sono ispirati a ognuno a un romanzo di Grazia Deledda, tranne il primo brano che abbiamo ascoltato, che in realtà non è ispirato a un romanzo, ma è un testo di Paolo Pillonca che abbiamo cantato io e Caterina Angela, e che è musicato da Fabio Manconi, e che chiude invece il disco perché è un omaggio alla donna, grazie nella sua maturità, con i suoi capelli bianchi e con la forza e la bellezza della maturità, e quindi era un omaggio proprio a lei, mentre gli altri brani sono invece ispirati a romanzi, sono in italiano, tranne un paio di casi in cui c'è stato un adattamento invece al sardo dei brani di Stefano, fatto da un altro poeta della Sardegna, che è Michele Pioledda, che ha adattato i brani in lingua logudorese. Quindi il secondo brano era uno di quelli invece in italiano. A questo proposito, già insomma sentivamo molti nomi, hai fatto molti nomi, no? Prima hai parlato di, sì, Nino Manca, che ha partecipato con un contributo nel bel libretto che accompagna il disco, insomma, come sempre succede per le pubblicazioni della Squilibri Editore, dove c'è sempre un bel, quello che si chiama un booklet, no? Che accompagna un CD, ma in realtà è un vero e proprio libro, no? E poi insomma ci hai nominato non solo Stefano Starace, ma anche altre persone che hanno collaborato a questo progetto. Ecco, insomma, le collaborazioni sono state davvero tante, Claudio. No? A partire anche proprio dal progetto musicale e poetico, ma poi anche la collaborazione con dipinti di Narcisa Monni nel libro, ad altri contributi, diciamo, più dal punto di vista teorico, di raccontare anche chi è stata Grazia Deledda, che ci sono in questo booklet. Sì, come appunto, come dicevi, come in tutti i libretti dei lavori di Squilibri Editore c'è una grandissima attenzione ai contenuti, quindi contenuti extra, che sono quelli che danno senso all'acquisto dell'oggetto ormai, che può avere solo quel senso ormai. E ne vale davvero la pena, perché è un libretto di 50 pagine, c'è appunto il contributo di Dino Manca, c'è un altro contributo molto bello di Neria De Giovanni, che è un'altra esperta critica di letteratura, è un'esperta di Grazia Deledda. Poi c'è un intervento di Antonello Zanda della Cineteca Sarda, che ha messo a disposizione anche un documentario, Itinerari deleddiani, che è stato appena ristrutturato dalla Cineteca Sarda, che è molto bello, si può vedere con un codice QR che è presente nel disco. Poi c'è un mio piccolo intervento e un altro intervento di Stefano Starace, che presentiamo il nostro punto di vista su questo lavoro. E poi ci sono tantissimi, tantissimi musicisti e musiciste, cantanti che hanno collaborato e che hanno dato il loro talento, ed è veramente un lavoro corale con un risultato secondo me molto, molto forte e molto bello. Sì, oltre a Caterina Angela Fadda, infatti ci sono anche Rita Casiddu, Elisa Carta, Ilenia Romano, Mirko Menna, Caniolo Guercio, Massimo Donno, ecco gli ultimi tre tra l'altro che abbiamo avuto ospiti in passato a Zibaldone, quindi insomma siete riusciti insieme a il Stefano. Il meglio, anche Stefano Saletti. E Stefano Saletti, sì, è vero, hai ragione. Sì, poi abbiamo anche un intervento di Max Pizzianti, che è un arrangiatore storico di Paolo Conte, al bandoneon, tra l'altro di origine sarda anche lui, e poi tantissimi altri musicisti, Zoe Pia per esempio, che suona la Oneddas, il clarinetto in un brano, insomma c'è veramente tante cose belle. Ascolta, a questo proposito ne parlavamo fuori onda poc'anzi, tra primavera e estate, o forse più in estate, porterai in giro questo disco? Sì, stiamo organizzando delle presentazioni che speriamo di fare sicuramente in Sardegna, ma anche fuori dalla Sardegna, quindi a breve spero di avere delle date già fissate. A questo proposito, la domanda mi sorge spontanea, no? Come diceva Lubrano qualche anno fa, alla Casa Museo, diciamo, di Grazia Deledda, organizzerete qualcosa? Ci riuscirete? C'è già in mente? Diciamo, ci state lavorando? Stiamo trattando per Nuoro, adesso vedremo che cosa succede. Incrociamo le dita allora. Ascolta, sì. Claudia, grazie davvero di essere stata con noi. Vorrei lasciare però a te la presentazione del prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare. Torniamo in questo caso al sardo. Sì, in sardo questo brano si chiama Sairenzia de sus barones ed è la trasposizione del romanzo Canne al vento, quindi il più conosciuto di Grazia Deledda, e con l'adattamento di Michele Pioledda. È un brano che unisce alla lingua sarda anche un po' il ritmo del ballo sardo, e quindi ascoltatevelo e ballatevelo anche. Eh sì, poi dai, venerdì pomeriggio è anche un buon momento, no? A fine settimana per ballare, ancora di più per ballare Grazia dell'Edda, appunto cantata da te, con la collaborazione, ce l'hai raccontato, di Stefano Starace e tanti altri amici musicisti che sono davvero bravissimi. Claudia, di nuovo un abbraccio, in bocca al lupo con questo progetto e speriamo di averti presto a Barcellona. Grazie, speriamo. Sculdende parola smala se no queria. San Benedetto. dei giardini e vicino a San Francesco ci vive una signora che la notte non riesce a riposare. Esce sola e si mette a camminare. Ha gli occhi consumati di bellezza, le labbra che dischiude quando arriva in riva al mare per cantarsi una canzone. Piange un po', poi va a dormire. Amore, dove sei andato a finire? Ti ho cercato dappertutto, mi hanno detto che sei morto, che non posso più baciare la tua bocca. Ho la gola secca e si è strappato il cuore, l'ho portato a riparare. Ogni tanto ballo sola, vola in alto il mio dolore, vola la mia gonna lunga, quella bianca, quella che piaceva a te. Strada dei giardini è vicino a San Francesco, ci vive una signora che la notte non riesce a riposare. Esce sola e si mette a camminare. Pulisce la cornice di una foto accanto al letto, si leva quel filo di rossetto, chiude gli occhi e comincia a immaginare. Piange un po', poi va a dormire. Che sei morto, che non posso più baciare la tua bocca. Ho la gola secca e si è strappato il cuore, l'ho portato a riparare. E ogni tanto ballo sola, vola in alto il mio dolore, vola la mia gonna lunga, quella bianca, quella che piace a te. E lei è Chiara F, all'anagrafe Chiara Figus, classe 1984, cagliaritana, trasferitasi recentemente a Torino, un paio di album all'attivo, via Aquiloni e via Giardini. È davvero brava, secondo me, Chiara F. I suoi testi sono sempre dei piccoli ritratti, no? Di paesaggi. Tra l'altro, appunto, sia via Aquiloni che via Giardini sono sue due vie della sua città, appunto, di Cagliari. Tra l'altro ha vinto parecchi premi, ha vinto il premio Musica contro le mafie che si tiene ogni anno a Palermo in Sicilia, lo ha vinto nel 17, poi ha vinto il premio d'André a Roma, il premio dei premi del MEI a Faenza del 19, insomma ha partecipato a tanti festival, contest, ha organizzato tante cose, soprattutto anche quando i Sofar, no, i concerti in salotto in casa stavano cominciando, quindi insomma una voce molto bella. Tra l'altro lei è plurilaureata, quindi un personaggio davvero davvero molto interessante. E dopo Chiara F andiamo ad ascoltare un'altra voce, anche lei è nata negli anni 80, nel 1987, si chiama Angela Colombino, e questa è stata un po' la prima canzone che l'ha fatta forse conoscere, se adesso non vorrei sbagliarmi, ma da quanto ho capito dovrebbe essere così, che si intitola Clinomania, sentitevela qui. Ho dormito 20 giorni interi per non vederti. Ho finito il Kleenex, le scuse, i libri di Baricco. E son seduta un po' angosciata sul mio letto. Son le 5 e ancora non hai scritto. E cerco in fondo alle tasche del pigiama. forse riesco a trovarci un'altra scusa, tipo che l'amore ha bisogno dei suoi spazi, di respiri lunghi ed anche di silenzi, di bugie o di pianti soffocati, o di torte al cioccolato e buoni intenti. E noi, indecisi su che cosa fare, troppo stanco anche per parlare, e quegli occhi io te li vorrei strappare, ma lascio stare, preparo da mangiare. E son rimasta sveglia altre 20 notti, mi trascino in cucina desiderando un letto, e mentre lavo i piatti ripasso mentalmente a conti fatti, noi non ci siamo detti niente. Più minacce, più litigi che promesse, nessun abbraccio ed incoerenti compromessi. Io ho deciso che non mi spacco più la testa, torno a stendermi e tengo quel che resta. E noi, indecisi su che cosa fare, posso più guardare. E noi, indecisi su che cosa fare, e no, non voglio più pensare a tutto quello che non è stato detto. Se devo scegliere, io rimango a letto. Io rimango a letto, i versi con cui le ultime parole che avete ascoltato pronunciate da Angela Colombino in questa canzone, anche il titolo del suo primo EP in cui era contenuto questo brano, Clinomania. Parliamo del 2018, poi ne è uscito un altro nel 2021 che si intitola Mostro. Sentite sonorità un po' diverse forse da quelle precedenti, ci sono più l'indie pop, no? Di matrice anglosassone come influenza, ma non solo. Un'altra cantautrice davvero, Angela Colombino, da seguire. E ora andiamo ad ascoltare un'altra bella voce che viene dalla Sardegna, anche se è stata per tanti anni a Barcellona ed è stata più volte nostra ospite. Parliamo di Vanessa Bissiri e ci andiamo ad ascoltare il primo brano il suo nuovo album Empatica, uscito proprio all'inizio di questa 2023. Si intitola Ossessione Gentile. Conto i passi minuziosamente, scorrono i secondi e mi asciugano la mente con le piccole ossessioni del mattino. Prendimi la mano e non star troppo vicino. E passi minuziosamente, scorrono i secondi e mi asciugano la mente con le piccole ossessioni del mattino. Prendimi la mano e non star troppo vicino, perché triangoli sono rettangoli, quadrando le orme, trapezzi le forme e pezzi incastrati di me. Non mi piace che ci provi per forza a far quadrare una storta visione che chiami il mio gusto ossessivo per te. Perché triangoli sono rettangoli, quadrangole ore, trapezzi le forme e pezzi incastrati di me. Non mi piace che ci provi per forza a far quadrare una storta visione che chiami il mio gusto ossessivo per te. A volte farsi a pezzetti per tenersi più stretti, nelle tasche incontrare frammenti di te. Qualche volta volerti tutto intero e guardare le tue mani nel candore del mattino. Conto i passi minuziosamente, scorrono i secondi e mi asciugano la mente con le macchine complesse del progresso. Mi asciugano il cervello e lo riempiono di gesso. Questo brano si chiama Ossessione Gentile, è la prima canzone che vi proponiamo di Vanessa Bissiri, che ci accompagna in questa seconda parte di Zibaldone, un'altra cantautrice e artista sarda, molto legata a Barcellona, ma che ora è tornata in Sardegna e che ci presenta questo disco d'esordio, in realtà, almeno presentandosi con il nome Vanessa Bissiri. In realtà Vanessa l'abbiamo incontrata, conosciuta in tante occasioni, con tanti progetti, uno dei quali spesso appunto anche negli studi di Radio Contrabbando è stato quello dei Dinat Attack. Però prima, insomma, di entrare in medias res, di parlare di questo nuovo album intitolato Empatica, uscito lo scorso 20 gennaio, diamo subito il benvenuto a Vanessa Bissiri. Vanessa, bentornata a Zibaldone. Grazie, ciao a tutti e a tutte, buonasera. Bene, bene, un nuovo disco, un progetto assolutamente nuovo. Vanessa, raccontaci un po' di questa Empatica, da dove nasce, insomma, come hai creato questo progetto, perché so che poi ci sono tante cose di cui parlare, a partire anche dal fatto che forse definirlo album o disco non è proprio preciso, ma prima cominciamo un po' a parlare di questo disco d'esordio per un artista che è da tanti anni sulle scene, in realtà. Allora, questo disco nasce un po' da una fine, no? Che è la fine del progetto con i Dinat Attack, un progetto durato quasi 10 anni, dove insomma portavo avanti le mie canzoni, i miei testi e le mie melodie con un arrangiamento collettivo. Dopo una pausa lunga, con un altro pugno di canzoni, avevo voglia di creare qualcosa, non sapevo bene se un disco o un'esperienza. E alla fine ho utilizzato queste canzoni per creare più un'esperienza, no? E quindi farmi ispirare anche da altri ambiti creativi, come appunto la fotografia, l'immagine, il movimento, il colore. Ho cercato di creare un'identità con questo disco, quindi ancora prima di vestire queste canzoni, di arrangiarle e poi di dargli una casa, mi sono fatta delle domande su di me, no? Su cosa fosse successo in questi anni, cosa fossi diventata, quali erano le mie parole chiave, no? Per aprire un po' questa cassaforte, cosa erano le cose importanti per me, i miei valori nella vita, nella relazione, nel mondo, nell'umano. E quindi diciamo che questo disco è stato un po' una scusa per trovare delle risposte, seppur provvisorie, perché la vita è una realtà comunque mutevole, però per dialogare con me e quindi insomma presentarmi all'esterno con quello che ho trovato poi alla fine, no? Questo disco appunto non è un disco fisico, cioè non c'è l'oggetto CD come siamo abituati a vedere, ma ho voluto lavorare molto con l'immagine, quindi ogni canzone ha un'immagine, una fotografia con degli interventi grafici fatti a mano, che rappresenta un po' la casa della canzone, no? Insieme creano questo oggetto, questo album da toccare, da vedere, in un pack fatto a mano, a casa, da me e la mia famiglia. Con anche degli odori, degli input appunto legati al senso dell'olfatto, che portano anche ad aprire altre porte di altri mondi, insomma. Quindi è un'esperienza tutto tondo e anche molto particolare. Quindi, per capirsi, io vengo a un tuo concerto. Hai suonato tra l'altro il mese scorso a Barcellona per presentare questo disco. Prossimamente, all'inizio di aprile, suonerai anche a Sassari per la presentazione, appunto, nella tua città, più o meno possiamo dire adesso, visto che sei tornata da qualche mese in Sardegna. E quindi io sono, no, il pubblico, vengo al concerto e in realtà quindi non posso acquistare un CD, diciamo un compact disc, ma posso acquistare delle cartoline, è giusto? Sì, l'aspetto è quello di un CD, infatti tutti si aspettano di trovarci un CD dentro, perché comunque il formato è proprio formato CD, un quadrato, no? Perché sono un plico di cartoline. In mezzo troverete un foglio con tutti i testi e con un codice QR per scaricare i brani. E poi tutte le cartoline, come una specie di libro, però non rilegato, in modo tale che ognuno possa decidere di fare quello che vuole di ogni cartolina. Può regalarla, può scrivere un pensiero, degli auguri, un appunto, può metterla alla parete, può cambiare l'ordine, può farci dei disegni sopra, può farsi ispirare semplicemente. È un'idea interessante, insomma, e anche il formato ha a che fare con la riflessione che stavi portando avanti nella costruzione di questo disco su te stessa, in fin dei conti? Beh sì, l'idea era appunto di non obbligare nessuno a stare dentro un formato, di non starci neanche io. Poi è vero che la realtà ti obbliga, no? Perché poi anche per una questione di costi ho fatto delle scelte e non delle altre, no? Però anche quello è stato interessante, perché i limiti ti portano a trovare delle soluzioni, sempre tenendo fede a te stessa, però a fare le cose con gli strumenti che hai, e quello è molto faticoso, però allo stesso tempo è impagabile a livello creativo, perché ti ingegni moltissimo e alla fine arrivi un po' all'osso delle cose, no? Quando hai poche possibilità. E ascolta, e qual è quindi la Vanessa Bissiri che alla fine è venuta fuori da tutto questo lavoro di riflessione, questo lavoro artistico che si condensa in Empatica? È bello, è una Vanessa Bissiri in fase di cambiamento, di transizione. Questa transizione io la respiro tutta in scena, nel senso che un po' nel primo esperimento ho rinunciato al dialogo con pubblico, insomma il classico dialogo, no, da live, concerto, che in qualche modo ho sempre sostenuto e mi viene spontaneo, però ho voluto non interrompere l'esperienza dei brani, dei piccoli interventi teatrali, degli oggetti che transitavano la scena con un parlato, perché in quel momento non lo sentivo naturale, no? Quindi ci ho un po' rinunciato, rinunciando anche a un mio punto di forza. L'esperienza è riuscita, nel senso che la gente è andata via in una bolla, insomma, un po' mi hanno riferito che questo hanno vissuto e questo hanno sentito. Io mi sono sentita strana, però sentirsi così strani è normale quando sei in una transizione, no? Quindi secondo me è un buon segno, non stare nella mia zona di conforto, era quello che un po' stavo cercando, no? Sì, e quindi adesso siamo dentro questo esperimento completamente, e purtroppo gli esperimenti in scena li devi fare in scena. Tu puoi prepararti, ed è quello che sto facendo, puoi farlo tante volte, ma quello che veramente segna l'evoluzione è il pubblico. Certo. Quindi ci vuole di farlo tante volte questo concerto. Certo, sì, il contatto con la gente in sala, no? In un teatro, da un palcoscenico. Esatto. Sì. E, altra cosa interessante, tu vieni da tanti progetti, anche tu menzionavi prima i Dinat Attack, che erano progetti collettivi, no? In questo caso ti presenti con il tuo nome, però in realtà non è un disco in solitario, perché sei accompagnata da diversi artisti. Sì, ma da soli, come dice mia figlia, da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontani, no? Ed è vero, nel senso che le persone che mi hanno circondata incredibilmente si sono messe al servizio al 100% di quello che io volevo dire, quindi hanno lasciato a me la direzione di tutto, si sono messe al servizio creativo, nel senso che comunque hanno espanso i miei suggerimenti, li hanno approfonditi eccetera, però sempre molto rispettosi e rispettosi di quello che io stavo cercando. Essendo tutte persone, non solo grandi professionisti e professioniste, ma anche persone molto vicine e amiche, hanno proprio insistito nel fatto che io mi prendessi proprio le redini di questo progetto. Perché in generale io, appunto, essendo molto abituata a lavorare in collettivo, faccio fatica, no? Non a prendere decisioni, ma a fare in modo che la mia decisione abbia la supremazia. Perché in realtà il contributo delle persone che ho intorno è fondamentale. Però siamo riusciti a trovare un equilibrio meraviglioso, perché io mi sono presa questa responsabilità, loro mi hanno accompagnata e ho imparato moltissimo in realtà. E chi ti accompagna? Mi accompagnano due chitarristi meravigliosi, la chitarra elettrica Giancarlo Scevola, con cui già abbiamo avuto rapporti musicali in passato, alla chitarra spagnola Mario Maesso, alla batteria il mio carissimo amico di sempre Cocco, che era anche nei Nat Attack e che ha anche coprodotto il disco con me. Insomma, una serie di decisioni le abbiamo prese insieme, oltre ad aver fatto insieme la mescla, insomma il mix finale, e poi Sergio Rojas al bajo, che è un caro amico del conservatorio del liceo con cui ho studiato e con cui ci siamo accompagnati negli anni di studio, diciamo. Eh beh, insomma, sempre un bel parterre di gente che ti accompagna. Sì, e poi Eva Piredda, che insomma è stata fondamentale in tutta la ricerca personale, visuale, filosofica, diciamo, di tutto questo progetto, che oltre ad essere una grande professionista, fotografa, insomma esperta in spazi sia digitali che fisici che emotivi, è anche una carissima amica, quindi insomma abbiamo fatto un lavoro molto profondo anche per quello, insomma c'era una conoscenza pregressa che ha aiutato molto, no? Ma andiamo a ascoltarci un'altra canzone tratta dal tuo disco, si intitola L'amore son stagioni, e poi rientriamo qui insieme a te. Se ti piacciono i gelsomini, ascoltami, cercami. Se ti appassiona la violetta, ma non confondiamoci, quando è primavera e i fiori danno alla testa. Se ti piace camminare perdendoti nel mare, se ti piace il miele nel caffè, ma non confondiamoci, quando è primavera e lascia disegni perfetti, pezzi di parole scivolano giù per le nostre gole strette, sembra che si spostino i tuoi lunghi respiri, un giusto esercizio d'amore, mi siedo, ti lascio passare senza perdere il nome, mi siedo, ti lascio tornare, è il destino di un nome, un dire che taglia, un'assenza che adora, è vuoto cemento, non mi piace perderti negli occhi pian piano, con petali di calendula stretti in mano, la strada al disegno è perfetto, la fine non è per forza un lieto, pezzi di parole scivolano giù per le nostre gole strette, sembra che si spostino i tuoi lunghi respiri, un giusto esercizio d'amore. La fine non ha per forza un lieto. Se ti piacciono i gelsomini, ascoltami, cercami. Se ti appassiona la violetta, ma non confondiamoci, la strada al disegno è perfetto, la fine non è per forza un lieto, la strada al disegno è perfetto, la fine non è per forza un lieto. E questo è il secondo brano che vi proponiamo da Empatica, l'album, non album, se volete, con questo formato molto particolare di Vanessa Bissiri, ce lo stava spiegando poc'anzi. Vanessa, ritorniamo a Bomba con te per parlare ancora un po' di questo progetto e di una questione che in fin dei conti forse i nostri ascoltatori non se ne sono resi conto in queste due canzoni che abbiamo ascoltato, però tu non canti solo in italiano, ci sono canzoni anche in altre lingue. Sì, ci sono canzoni in castellano e c'è una canzone in inglese. In realtà io normalmente non sono solita comporre in inglese, però questa canzone è venuta fuori così. E in realtà quello che mi conquista di una lingua sono i suoni, no? E in quel caso ci stavano quei suoni, quelle parole. Infatti il titolo della canzone in inglese è Up Through the Air, no? Mi piacevano molto queste due preposizioni, up e through, no? Sopra e attraverso. E quindi niente, mi è piaciuto cantare in lingue diverse perché in fondo i suoni di ogni lingua riescono a esprimere bene certe parole, a volte meglio di altre, no? Infatti conservo magari delle parole in una lingua che non è la mia, però che mi aiutano ad esprimere meglio una sensazione, perché poi alla fine le lingue sono un insieme di suoni anche, e la loro sensibilità trasferisce un significato che non è solo semantico ma è anche sonoro. Quindi sì, Empatica declinata in più lingue. Eh sì, è una cosa, tra l'altro, una caratteristica che ti accompagna da tempo, quella di cantare in più lingue, sia temi tuoi che versioni, no? In passato ne hai fatte molte. E l'altra cosa che ti volevo domandare è da non molto sei tornata in Sardegna, ecco, il disco immagino che fosse già molto avanzato all'epoca, però insomma ti volevo domandare anche su questo rientro e insomma anche adesso musicalmente in questa tua nuova fase che ci stavi raccontando, che in fin dei conti si trova, no? Come in questo progetto in Empatica, ecco, come sta, qual è l'influenza anche ora del ritorno nella tua isola, nella tua casa, insomma, in Sardegna? Diciamo che questo ritorno è stato meditato e alla fine è successo all'improvviso, dopo una lunga meditazione, perché secondo me io avevo bisogno di tornare alla mia terra. Dopo 23 anni circa, dopo 15 a Barcellona, è una terra fatta sicuramente di sensazioni, o perlomeno io la registro così, fatta di roccia, di vento, di profumi di ogni tipo, di erbe che il vento porta, e quindi è una terra secondo me che in qualche modo è nelle cose che poi io esprimo, no? Nelle mie canzoni in qualche modo. Questo ritorno è stato molto bello perché sto trovando un'accoglienza molto grande a livello artistico, ci sono una serie di persone che mi stanno già aiutando per l'allestimento dello spettacolo qui il 6 aprile, tra cui Maurizio Giorno e Battistina Casula per la regia e per la scenografia, ma a parte insomma il grande aiuto che mi stanno dando, mi stanno anche mostrando un po' che è possibile creare un'equipe qui, no? Un gruppo di lavoro, un collettivo dove ognuno si occupa della sua specialità e insieme si crea qualcosa. E per me è molto importante che succeda qui, perché è una terra comunque che soffre di un isolamento, con moltissimi talenti di ogni tipo, però con una comunicazione difficile con il resto dell'Italia e del mondo a volte, quindi insomma è un po' penalizzata in questo senso, però veramente ha tanto da dare, tanto da esprimere, quindi sono contenta di essere tornata e di risentirmi a casa in qualche modo dopo tanto tempo. A questo proposito dicevamo che il prossimo 6 aprile, se non erro, ci sarà il concerto a Sassari, magari qualcuno ci sta ascoltando e verrà a vederti, a vedervi, e come ultima domanda ti volevo proprio domandare riguardo alla mise en scène, no? Dello spettacolo, ecco, perché non è un concerto propriamente detto, ma giochi appunto con diversi registri. Sì, stiamo cercando di lavorare un po' appunto con alcuni elementi scenografici che suggeriscono un po' l'universo di ogni canzone, con un lavoro luci che dia un po' l'idea dell'emozionalità che c'è dentro ogni canzone, cercare di fare come di infilare le canzoni, no? Dentro una specie di storia, no? Di creare una storia senza allo stesso tempo perdere la spontaneità della comunicazione del momento, e sono due livelli difficili da armonizzare, bisogna praticarli, bisogna trovarli, bisogna sentirli in qualche modo, perché non si tratta di uno spettacolo teatrale, ma non mi voglio neanche sedere a cantare le canzoni, perché non è da lì che passa comunque la mia esigenza, e quindi sto un po' cercando come mettere insieme queste cose. La prima cosa sicuramente è creare un'esperienza visuale, dove una persona entra in sala e si senta già immersa in qualcosa, no? E se ne vada un po' come in una bolla, con delle sensazioni poi da sviscerare come crede e in totale libertà. Bene, bene, bene. Oh, insomma, speriamo di riaverti presto anche a Barcellona e innanzitutto ti facciamo un grande in bocca al lupo per il concerto a Sassari. E noi ci salutiamo con un'ultima canzone che è Visione. Mi piacerebbe che la presentassi tu ai nostri ascoltatori. Visione è proprio una visione, nel senso che è un po' un ricordo, no? Come quando chiudi gli occhi per ricordare meglio, no? È curioso chiudere gli occhi per vedere. A volte chiudiamo gli occhi proprio per poter visualizzare internamente un ricordo, e visione ha a che fare un po' con questo, in particolare con magari i volti di persone che non ci sono più, che non sono più nella loro pelle vicino a noi, ma che possiamo ricordare, possiamo quasi ripercorrere il profilo del viso con un dito, per esempio, no? Mi piace molto questa cosa di lasciare un po' alla come senso la vista a un altro organo che non sono gli occhi, no? Pensare che i sensi siano intercambiabili, che la vista può appartenere alla pelle, che il tatto può appartenere alla vista. Un po' questa cosa, di questo parla Visione. Vediamo se anche i nostri ascoltatori, dopo quello che ci hai spiegato, se ne rendono conto di più. Vanessa, grazie davvero di averci accompagnato questo Jazzy Baldone, e grazie in bocca al lupo con questo nuovo progetto. Viva il lupo! Lei è Vanessa Bissieri, Empatica, il suo nuovo album, e la canzone che ci andiamo ad ascoltare si intitola, come avete appena capito, Visione. Oggi mi sono fermata sul tuo profilo a fumare l'ultima sigaretta, a guardare le scie chimiche e gli uccelli rimasti senza ali, perché la nebbia aiuta a dimenticare il cortocircuito ad amare. Vedo campi di fragole ad agosto, probabilmente la tua bocca che si muove. La mano nel mezzo di un soffio di vento, rimango seduta a pregare con te. Le stagioni hanno perso la strada, disegni fiori sulle tue ginocchia, cambi una canzone per un pugno di castagne, i tuoi occhi per un caffè bollente. Quel sogno appoggiato sull'orlo di un tavolo, gioco fino a farlo cadere, non arrivo alla fine per tenermi qualcosa da fare. Mentre incanto il pensiero con l'ultimo goccio di te, di te, di te. Mentre incanto il pensiero con l'ultimo goccio, ritornata sul tuo respiro, a sentire quello che non mi hai detto, a cercare nella mente le parole che spiegano i pensieri, perché il silenzio aiuta ad accarezzare e il vento a lasciarsi portare. Vedo campi di fragole ad agosto, probabilmente la tua bocca che si muove. Quel sogno appoggiato sull'orlo di un tavolo, gioco fino a farlo cadere, non arrivo alla fine per tenermi qualcosa da fare. Mentre incanto il pensiero con l'ultimo goccio di te, di te, di te. Mentre incanto il pensiero con l'ultimo goccio di te, di te, di te. questo ponte c'è soltanto l'innocenza di chi guarda i propri cari da una cornice sulla credenza, sulla credenza. Al rullo dei tamburi fermi tutti, tutti muti a parlarci dietro i vetri con gli sguardi e con i gesti, a soli gesti. Agli indiani dei film western, agli indiani delle stalle, agli indiani milionari dell'acciaio e delle navi che solcano il Mar Grande. Veramente bravo, Checco Curci, un disco d'esordio che è un album però di una grande maturità, e questa news non ci arriva dall'Italia ma ci arriva attraverso il Lussemburgo, perché torna a trovarci ed è un grande piacere averlo di nuovo con noi, Berardo Staglianò, Radio Ara Sentieri Sonori. Berardo, bentornato in questo 2023. Mio caro, molto molto felice di essere di nuovo dalle vostre parti e ancora più felice di farlo iniziando con questo disco assolutamente meraviglioso. So che lo hai ascoltato pure te e direi che siamo d'accordo, una delle novità più belle di questo inizio di anno ed un esordio sorprendente. Molto molto assolutamente, e io credo che sarà un nome che ascolteranno tante volte i nostri ascoltatori, insomma chi ama la canzone e la musica italiana nei prossimi tempi. Magari Berardo, approfittiamo per spiegare un po' chi è Checco Curci. Anche perché sarà il nostro ospite la prossima settimana, il 18 marzo, a Sentieri Sonori, ma confesso che la chiacchierata l'ho già registrata qualche giorno fa, quindi ho anche qualche indicazione in più. È un ragazzo nato e cresciuto a Noce, in provincia di Bari, poi si è spostato prima a Venezia e poi a Milano, dove si è specializzato in urbanistica, materia che insegna al Politecnico. Allo stesso tempo tante avventure musicali, vari gruppi, eccetera, eccetera. era, però mi raccontava che per arrivare a questo disco da solista si è voluto prendere il suo tempo, e direi che all'ascolto la cosa si nota, direi, in maniera molto molto importante, perché è un disco molto ricco dal punto di vista musicale, con arrangiamenti curatissimi ma mai sovraccarichi, che riescono a mettere insieme la canzone d'autore più classica all'italiana con le sonorità della musica internazionale di questi anni, direi, e anche dal punto di vista lirico un disco che lascia a bocca aperta, soprattutto come disco di esordio, perché tratta anche argomenti non facili, usa anche un italiano che non è sempre quello più semplice a cui ci ha abituati la musica dei nostri giorni, ma lo fa senza mai suonare pretenzioso, senza mai suonare ostico. Un disco veramente splendido, che ha lavorato in primo luogo con Giacomo Carlone, che suona con lui e che ha prodotto il disco, ma che gode anche, direi, della supervisione artistica di un altro artista che ben conosciamo, come Riccardo Sinigallia, che ha aiutato appunto Checco Curci a realizzare questo disco. Si intitola Anche solo per un saluto, è uscito a fine gennaio, sabato prossimo lo avremo con noi, come dicevo, per parlarne. Io lo consiglio vivamente a tutti i tuoi ascoltatori e inizio a dire che per me difficilmente ci sarà un esordio dell'anno più bello di questo di Checco. È un bel inizio di 2023, non c'è che dire. Berardo, visto che insomma ci raccontavi che la prossima settimana sarà tuo ospite, approfittiamo anche per ricordare ai nostri ascoltatori quando va in onda Sentieri Sonori, come si può ascoltare anche da queste latitudini, quelle diciamo mediterranee, un po' più calde ma non così tanto, insomma, di quelle del Lussemburgo, almeno in questo periodo. Beh, guarda, anche da queste parti le temperature sono abbastanza rigide negli ultimi tempi. Sentieri Sonori va in onda ogni sabato mattina 11:30-13 su Radio Ara, che si può ascoltare in streaming o in podcast in tutto il mondo. I link li potete trovare, cari ascoltatori di Zibaldone, su ara.lu, il sito della nostra radio, ma anche su sentierisonori.blogspot.com, il blog della nostra trasmissione, con un post al giorno implacabili, con uscite, novità, video e non solo, insomma, i podcast o gli annunci delle trasmissioni. E a proposito di novità di questo inizio di anno, che ne dici, arriviamo alla seconda e andiamo a Livorno, che insomma è una città che ci regala tanta musica, bene, possiamo dirla, a cui vogliamo bene, che regala tanta musica. Sì, infatti, dai, raccontaci un po' cos'è il secondo consiglio di questo collegamento mensile, perché so che è un'altra bella cosa che piacerà secondo me a molti dei nostri ascoltatori. Sì, anche perché è un esordio anche in questo caso di un progetto che si fa chiamare Della Vega, ma che riunisce in realtà dei nomi già noti a entrambi, direi, perché tutti e tre i membri della band erano negli anni 90 membri degli Snaporaz, che penso che non solo io e tu ricorderemo per dei bei dischi, anche per le colonne sonore dei film di Paolo Virzì. Infatti uno dei tre è anche il fratello di Paolo, Carlo Virzì, che ha aiutato sugli arrangiamenti. Massimo Giannini ha prestato la voce e il sax a questo disco, che nasce principalmente dall'opera di Matteo Pastorelli, che era negli Snaporaz e che da ormai un bel po' di anni, dopo aver suonato con Roy Paci, Bobo Rondelli e tanti altri, dal 2010 è ormai insomma da più di 10 anni il chitarrista dei Virginiana Miller. Quindi insomma un universo musicale, quell'universo musicale livornese che tanto amiamo e che regala un nuovo disco molto particolare, perché faticherei a mettere delle etichette, onestamente, e non ne voglio neanche mettere, perché si sente che è un disco nato in modo molto naturale. Matteo mi raccontava Sava è stato nostro ospite qualche settimana fa, ai link di cui prima potete trovare i podcast, che erano una serie di brani che ha iniziato a scrivere durante il periodo della pandemia e che poi appunto ha voluto portare avanti con i suoi amici. Il risultato, lo ripeto, si intitola Mille Inverni, loro sono i Della Vega e penso che potrete interessarvi a questo progetto, cari ascoltatori di Zibaldone. E allora noi ce lo andiamo a sentire. Berardo, grazie di essere stato con noi, ci ritroviamo il mese prossimo, ti mando un abbraccio e ti lascio lanciare questo brano. Un abbraccio a te e a tutti i tuoi ascoltatori, godetevi questa splendida La Rivoluzione, loro sono Della Vega. Domani e fino a mercoledì sarà possibile acquistare il DNA di Diabolik come se fosse ancora congelato. Il Ministero dell'Economia, misure pensate per proteggere i risparmi nei conti correnti delle banche. tanto diversi ma così vicini nel toccare i sentimenti di intere generazioni. Ora, biliardini, ping pong e flipper devono essere denunciati per aggressioni e rapine, nella cui ricostruzione c'è un buco di mezz'ora. Nordio in Parlamento, nessuna possibilità di modificare la normativa, ma incredulità e cordoglio per la scomparsa di Battisti e Dalla. Giorgia Meloni dagli Emirati Arabi parla della tragedia del superbonus edilizio. Il prossimo Consiglio dei Ministri lo faremo dal quarto piano dei cantieri. Vi assisteranno 10 fortunati sudditi estratti a sorte. Ancora in dubbio la presenza di Piantedosi. Non era stato segnalato pericolo. Mi assumo tutte le 2000 imprese di Bergamo per 30 giorni. Mira a diventare la nuova Adele, sapendo poco o nulla di musica. Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro, tradita dai pizzini nascosti nei fiumi in secca. La donna, 68 anni, un ruolo centrale nel toccare i sentimenti, cantando comunica una sua folle filosofia di vita. Sequestrati 9 Elton John contraffatti. La neosegretaria Schlein prosegue l'opera di riforma del PD anche all'aperto, dalle fermate dei mezzi pubblici ai dehors di bar e ristoranti fino ai parchi. In arrivo battaglie fondamentali, dalla scuola alla moralizzazione della Santa Sede, alla sanità, al salario delle truppe russe. Conte, colpiti da questa mobilitazione, speriamo di avere 60 anni di tempo, ma dopo mezz'ora fugge in scooter e poi in auto. Siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta, c'è il bando che strapara fuori onda, occhio che il capo s'arrabbia, radio contrabbanda, siamo in onda, Steven fa la domanda. Siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta, c'è il bando che strapara fuori onda, che il capo s'arrabbia, radio contrabbanda, siamo in onda, Steven fa la domanda, radio contrabbanda, siamo in onda, Steven fa la domanda. E vabbè, no, la domanda quest'oggi non la posso fare perché il banzo oggi non è in trasmissione con noi, però avete sentito che sono tornate le ultimissime di Fausto, come tutti i venerdì, che insomma ci fanno un po' capire cosa succede davvero nel mondo, al di là di quello che ci raccontano i più importanti mass media. Quindi avete capito anche quest'oggi che, insomma, tra politica italiana e internazionale, tra Meloni e Schlein, Piantedosi, la guerra in Ucraina, insomma, chi più ne ha più ne metta, in realtà le cose sono un po' più complesse. Bene, ci stiamo avvicinando alla fine dello Zibaldone, dopo aver anche chiacchierato un po' con il nostro Berardo Staglianoi, ci rimane il tempo ancora per almeno un paio di canzoni che hanno a che fare ovviamente con la Sardegna, con le cantautrici sarde, però in questo caso non parliamo di cantautrici del giorno d'oggi o diciamo delle nuove generazioni, ma due nomi importantissimi. Ecco, la prima tra l'altro ve la presentiamo cantata in una versione particolare, che è quella di Esther Formosa, che è una bravissima cantautrice catalana, che è stata anche nostra ospite qualche anno fa qui a Zibaldone, che si è trasferita in Sardegna, conosce molto bene la Sardegna e ci propone Ria Ria, un brano di Marisa Sannia. Ce l'andiamo a sentire, poi diciamo qualcosa su Marisa Sannia, perché è stato un nome davvero importante per la canzone sarda, ma anche per la canzone italiana. Sentiamoci nel frattempo Esther Formosa e questa bellissima versione di Ria Ria, che tra l'altro è un live. He visto una gruta, era una casa de fades, i un núvol si endormiscava. He vist un nan a la neu encantada. El nan feia un gegant amb la neu. He vist una calçada tota blanca d'ovelles i a la lluna m'enduia a casa meva. Camino pel fons de la mar. Ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria, ria. Travessava la lluna un tren fet de núvols. A l'aire hi ha un home invisible. He vist el cel. Semblava un llac i una nau fondejava llunyana. He vist ovelles com de plata pasturant per les aigües i un caçador disparava contra els núvols. Diari, ari, ari, ari, am. Diari, ari, ari, ari, am. Camino pel fons de la mar. He vist un infant que volava. Les ales que duia eren d'algues. He vist un sonàmbul tot cantant dins el somni, cantant sense dir cap paraula, cantant a boca closa. I ara, ara, ara, ara, am. I ara, ara, ara, ara, am. Camino pel fons de la mar. He vist la calçada. Era un riu ple d'ovelles. He vist el cel, semblava un llac. He vist la lluna, era una casa. He vist una dona, sola, cantant. Cantant a boca closa. De are are are are am. De are are are are am. De are are are are am. De are are are are. Ah! Sì, degli applausi, era una versione live registrata al Barna Sans Festival che da più di 25 anni insomma porta avanti la difesa della canzone catalana. Infatti appunto Esther Fermosa è una cantautrice catalana e qui cantava in catalano, no? Il brano di Marisa Sannia, che con cui tra l'altro aveva collaborato poco prima, negli ultimi anni prima della morte di Marisa Sannia, che ci ha lasciato nel 2008. Era conosciuta come la Gazzella di Cagliari. Lei in realtà era nata nel 1947 a Iglesias e ha avuto diverse tappe, no, che hanno a che fare con la canzone, perché dopo essere stata da giovanissima una importante giocatrice di basket, arrivando a giocare nel CUS Cagliari pallacanestro femminile, ma anche nella nazionale italiana, aveva partecipato ai campionati europei juniores del 1965 in Bulgaria, poi proprio in quegli anni, alla metà degli anni 60, comincia anche una carriera come cantautrice e lì conoscerà Sergio Endrigo, con cui collaborerà praticamente durante tutta la vita, e con Luis Bacalov, con Sergio Bardotti, incide diversi brani di canzoni d'autore che partecipano, con i quali partecipa a diversi festival, Canzonissima, il Festival Bar, il Festival di Sanremo del 1968, in cui arriva seconda con un brano che si intitola Casa Bianca, composto da Don Bachi e cantata insieme a Ornella Vanoni, che fu anche un successo di vendite, praticamente oltre 500.000 di copie vendute. Partecipa in molti film come attrice, ma anche come appunto cantante, diciamo, nella colonna sonora. Insomma, Marisa Sannia davvero ha partecipato a tante cose, e questa tappa dura praticamente tra la metà degli anni 60 e la metà degli anni 70. Collaborerà anche negli anni 70 al progetto dell'Arca di Sergio Endrigo, no? Le canzoni di Vinicius de Moraes che ripropone Endrigo, no? Endrigo lì interpreta brani come Il gatto e il pinguino, parliamo del 1973. Ecco, e poi insomma scompare un po' dalle scene e ritorna negli anni 90 cantando in sardo, e si trasforma davvero in un referente della canzone sarda, pubblicherà 4 album, l'ultimo è postumo, Saoghe de Suento e de Sumare, che è appunto del 1993, riscuotendo successo di critica, di pubblico, insomma con dei progetti davvero, davvero importanti, Mela Granada del 97, Nanas e Janas del 2003 e appunto postumo Rosa de Papel, che tra l'altro è un progetto molto, molto importante secondo me e tra l'altro per noi che ci troviamo in Spagna forse lo è ancora di più, perché è un progetto a cui lei aveva teneva moltissimo e che è dedicato alla vita e alle poesie di Federico García Lorca. Si tratta di 12 canzoni appunto di Marisa Sannía, in cui traspone in musica alcune liriche del periodo giovanile appunto di questo grandissimo poeta Federico García Lorca. E il brano che vi abbiamo proposto di Esther Formosa voleva essere anche la nostra sezione, come sapete ormai, che abbiamo inaugurato quest'anno dell'Italia dei cantautori italiani riproposti in spagnolo, no? De Italia a otra parte, con appunto Esther Formosa. Siamo arrivati alla fine dello Zibaldone di quest'oggi, ovviamente ci salutiamo e per chiudere come il fo questa puntata dedicata alla Sardegna, alle cantautrici sarde, Sardegna è un nome di donna, appunto è il titolo che abbiamo voluto dare a questo programma di Zibaldone, ci salutiamo con un altro grandissimo nome della voce, della canzone d'autore sarda, parliamo di Maria Carta, qui l'ascoltiamo insieme ad Andrea Parodi in un live del 1993, una canzone famosa e bellissima, No Poto Reposare, e ovviamente io credo che molti di voi conoscono, o almeno il nome di Maria Carta gli dirà qualcosa, però ecco, è una importantissima cantautrice, lei è originaria della provincia di Sassari, Siligo, nata negli anni 30 e scomparsa proprio l'anno successivo della canzone che ci ascoltiamo, della registrazione, nel 1994, è stata anche politica, è stata eletta con il Partito Comunista negli anni 80, se non erro, come consigliere comunale sì, a Roma tra il 1976 e il 1981, ha fatto tournée con Amalia Rodriguez in Sardegna e non solo in Sardegna, ha recitato nella Medea di Franco Enriquez al Teatro Argentina all'inizio degli anni 70, è stata amica e ha collaborato con Pasolini, con Francis Ford Coppola, tra l'altro il ruolo della madre di Vito Corleone nel Padrino parte seconda di Coppola era il 1974, lo interpreta proprio Maria Carta, ha collaborato con Zeffirelli nello sceneggiato Gesù di Nazareth, ha suonato a New York, ha suonato ancora negli anni 70 un concerto importantissimo al Teatro Bolsoi di Mosca, ma anche ha partecipato in programmi della Rai dedicati proprio a lei, alla canzone in sardo, no? E dopo la sua morte è stata creata la Fondazione Maria Carta e un premio Maria Carta, insomma, è un referente imprescindibile, no? della musica in lingua sarda, quella di Maria Carta. Tanto che Giuseppe Dessì, nella presentazione dell'album Delirio, siamo sempre negli anni 70, in concreto nel 1974, diceva: dopo aver conosciuto Maria Carta, ancora una volta affermo che i soli grandi uomini della Sardegna sono state donne. E forse insomma non ci siamo sbagliati rileggendo queste parole di Dessì nel chiamare la nostra puntata Sardegna è un nome di donna. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo per una nuova puntata di Zibaldone. Buon venerdì sera e soprattutto godetevi questo brano di Maria Carta insieme ad Andrea Parodi, un altro nome e un altro nome tutelare della canzone sarda ed italiana No Poto Reposare, qui in questo live del 1993. Non posso riposare, amore coro, e incende a chiesa donze momento. Non viste se in cristura per la oro, se in dispiacere o pensa dentro, t'assicuro che a te sono bravo, cadamo forte d'amo, d'amo, d'amo. T'assicuro che a te sono bravo, cadamo forte d'amo, d'amo, d'amo. Essere possibile d'anche lui, si spirito invisibile piccavo, sa forma se pura vota e che lui su sole sosiste dose formavo un mondo bellissimo protene pro poter dispensare cada bene. Non viste sei tristura.